Dove sei ora? Dove sei tu? Vengo solo a dirti che non sei passato mai e mi tieni ancora come sempre su. Abbiamo fatto l'impossibile, eppure adesso negli occhi ho l'estate e il tempo che abbiamo perso in silenzio lo metto da parte. Ti saprò convincere. Ci convivi o non me lo dici adesso? Negli occhi mi dai le spalle e perderemo altro tempo che ancora metterò da parte. Se mi saprai convincere, resta con me. Piove su strada.